Ciao a tutti e benvenuti a Deep Dive. Oggi ci buttiamo a capofitto in un argomento che sta davvero, come dire, rimodellando il mondo, l'intelligenza artificiale. Ma non parleremo solo di algoritmi e robot, no? Andremo proprio in profondità a esplorare l'impatto dell'IA sul diritto. Sì, hai colto nel segno. E a giudicare dalla montagna di materiale che mi hai passato, articoli, documenti governativi, casi di studio, sembra proprio che tu abbia voglia di far luce su come l'IA stia trasformando il panorama legale. Eh sì, la mia missione, diciamo così. Beh, direi che hai pane per i tuoi denti, allora. Dalle nuove sfide in termini di responsabilità, alla possibile rivoluzione nel mondo del lavoro, fino all'affascinante e forse un po' inquietante idea di robot con personalità giuridica. E c'è davvero tanto da scoprire. Un bel programma, insomma. Ma prima di partire, mettiamo subito in chiaro un punto, cosa in parole semplici, l'intelligenza artificiale, e quali sono le sue diverse forme. In parole semplici, l'intelligenza artificiale è quella scienza che sviluppa modelli computazionali che cercano di replicare i comportamenti intelligenti. In pratica, si tratta di insegnare alle macchine a pensare come noi umani, a risolvere problemi, a prendere decisioni. A pensare, eh? Interessante. E puoi farci qualche esempio concreto di intelligenza artificiale? Certo, pensa ai robot chirurgici, sempre più usati in sala operatoria, o agli assistenti virtuali che ormai molti di noi usano quotidianamente. Giusto, esempi che dimostrano come l'IA stia già entrando nella nostra vita di tutti i giorni. Ma a livello di ricerca, di studio, si fa una distinzione tra diversi tipi di intelligenza artificiale. Sì, la ricerca distingue tra quella che si chiama IA debole e IA forte. Debole, forte, interessante. L'IA debole è quella che troviamo per esempio nei sistemi di raccomandazione online o negli algoritmi di apprendimento automatico. Questi sistemi sono fatti per fare compiti specifici, simulando solo alcune funzioni cognitive umane, ecco. E l'IA forte invece. L'IA forte invece è un obiettivo più ambizioso, quasi futuristico, eguagliare o addirittura superare l'intelligenza umana in tutti i suoi aspetti. Un obiettivo ambizioso, ma la ricerca in questo campo avanza rapidamente. Quindi, per fare un esempio, quando si parla di auto a guida autonoma, ci troviamo di fronte a un'IA debole, anche se sono sistemi molto complessi. Esatto, almeno per ora. Le auto a guida autonoma, pur essendo dotate di capacità di apprendimento e di elaborazione dati molto avanzate, rientrano ancora nella categoria dell'IA debole. Sono progettate per fare un compito specifico, guidare. Capisco. L'IA forte invece avrebbe la capacità di apprendere e adattarsi a qualsiasi situazione, di prendere decisioni complesse in modo autonomo, proprio come un essere umano. E arriviamo dunque. Come si inserisce il diritto in tutto questo? Le nostre leggi e le nostre norme sono pronte ad affrontare le sfide poste dall'IA. Leggendo il materiale che mi hai dato, ho trovato diversi articoli che esprimono forti dubbi in merito. Ecco, questo è il nodo cruciale. Il diritto per sua natura si evolve più lentamente della tecnologia. E con l'arrivo dell'IA ci troviamo di fronte a una serie di questioni completamente nuove. Prendiamo ad esempio la responsabilità civile. Chi è responsabile se un sistema di IA causa danni? È una domanda fondamentale. Facciamo un esempio concreto. Se un'auto a guida autonoma provoca un incidente, chi ne risponde? Bella domanda. Il produttore dell'auto. Chi ha sviluppato il software? Il proprietario del veicolo? O forse, in un futuro non troppo lontano, l'auto stessa? Davvero un bel dilemma. Esatto. È un dilemma etico e giuridico di non facile soluzione. Alcuni casi di incidenti con auto a guida autonoma hanno già sollevato queste questioni e i tribunali di tutto il mondo si stanno confrontando con questi nuovi scenari. Alcuni esperti sostengono che le attuali norme sulla responsabilità del produttore siano sufficienti, altri propongono nuovi modelli di responsabilità. E c'è chi addirittura ipotizza, come dicevamo prima, di attribuire una forma di personalità giuridica ai robot più avanzati. Personalità giuridica e robot. Ecco, questa sì che è una prospettiva interessante. Sembra quasi fantascienza, ma a quanto pare è un'idea che sta prendendo piede. Certo, è un'idea che solleva molte questioni, sia a livello pratico che filosofico. Significherebbe riconoscere ai robot una sorta di soggettività giuridica, con diritti e doveri come qualsiasi persona fisica. Immagino che le implicazioni sarebbero enormi, sia per il sistema legale che per la società. Ma allora c'è un dibattito che non possiamo più rimandare. Se l'IA continua a evolversi a questo ritmo, prima o poi dovremo affrontare la questione di come integrarla nel nostro ordinamento giuridico. Assolutamente. E non dimentichiamo l'impatto dell'IA sul mondo del lavoro. L'automazione sta già trasformando molti settori e la domanda che molti si pongono è: l'IA è una minaccia o un'opportunità per il lavoro umano? Beh, diciamo che entrambe le prospettive trovano spazio nel dibattito. Da un lato, è innegabile che l'automazione stia sostituendo il lavoro umano in molti settori, soprattutto quelli che richiedono compiti ripetitivi e manuali. Dall'altro, l'IA sta creando nuove opportunità in settori come la programmazione, l'analisi dei dati, la robotica. Giusto. È una situazione in continua evoluzione, con alcuni lavori che scompaiono e altri che nascono. E questo ci porta a un'altra questione cruciale. Come possiamo prepararci a questo futuro del lavoro? Come possiamo garantire che l'IA sia uno strumento di progresso per tutti e non solo per pochi? Nel materiale che mi ha dato ci sono diverse proposte in merito, come l'idea di tassare i robot per finanziare un reddito di cittadinanza per chi perde il lavoro, o quella di investire massicciamente nella formazione e nel reskilling dei lavoratori, per prepararli alle nuove professioni del futuro. Sì, sono due approcci diversi, ma entrambi con l'obiettivo di mitigare l'impatto sociale dell'automazione. La tassa sui robot è un'idea controversa, che suscita forti dibattiti tra economisti e politici. Alcuni la vedono come una soluzione per redistribuire la ricchezza generata dall'automazione, altri la considerano un freno all'innovazione. E per quanto riguarda il reskilling, sembra un'opzione più realistica, ma non priva di sfide. Come possiamo formare milioni di persone per lavori che ancora non esistono? Come possiamo garantire che la formazione sia accessibile a tutti e non solo a chi ha già determinate competenze o risorse economiche? Sono domande complesse a cui non ci sono risposte facili, ma una cosa è certa, dobbiamo agire con urgenza. L'IA non aspetta e noi non possiamo permetterci di farci trovare impreparati. Hai perfettamente ragione. Dobbiamo affrontare queste sfide con lungimiranza e con la consapevolezza che l'IA, se ben gestita, può essere un potente strumento di progresso per l'intera umanità. Ma non dimentichiamoci un altro aspetto fondamentale. L'IA si nutre di dati e questo solleva inevitabilmente la questione della privacy e della protezione dei dati personali. Viviamo in un'epoca in cui i nostri dati sono una risorsa preziosissima e l'IA, per funzionare, ha bisogno di accedere a enormi quantità di dati. Ecco, hai toccato un punto cruciale. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, il GDPR, è entrato in vigore proprio per tutelare i nostri dati. Ma come si applica il GDPR nell'era dell'IA? Come si concilia l'apprendimento automatico, che si basa sull'elaborazione di grandi quantità di dati, con la protezione della privacy? Già, un bel dilemma. E poi c'è il problema del consenso. È ancora valido il consenso come strumento di tutela quando l'IA elabora i nostri dati in modo automatico e spesso opaco? Sappiamo davvero cosa succede ai nostri dati quando vengono utilizzati per addestrare un algoritmo di intelligenza artificiale? Il GDPR, pur essendo un passo avanti importante, non fornisce tutte le risposte a queste domande. Dobbiamo riflettere su nuovi strumenti di tutela, su come garantire trasparenza e controllo sui processi decisionali automatizzati. Dobbiamo assicurarci che l'IA non diventi uno strumento di sorveglianza o di discriminazione. Quindi l'IA da un lato offre opportunità incredibili, ma dall'altro solleva questioni etiche e giuridiche complesse che dobbiamo affrontare con urgenza. E non dimentichiamoci dell'impatto dell'IA su settori specifici come la sanità, la finanza e il processo civile, settori che stanno vivendo una trasformazione radicale grazie all'IA. Ma di questo parleremo nella prossima parte del nostro Deep Dive. Esatto. Ci addentreremo in questi settori specifici, analizzando come l'IA stia cambiando il modo in cui curiamo le malattie, gestiamo i nostri soldi, amministriamo la giustizia. E cercheremo di capire quali sono le sfide e le opportunità che ci attendono. Riprendiamo il nostro viaggio nel mondo dell'IA e del diritto e andiamo a vedere come questa tecnologia stia trasformando alcuni settori chiave. Tu avevi parlato di sanità, finanza e processo civile. Sì. Esatto. Iniziamo dalla sanità. Qui l'IA promette davvero una rivoluzione. Sì, ho letto articoli davvero incredibili su come l'IA stia aprendo nuove frontiere nella diagnosi, nella cura e nella gestione dei dati sanitari. Sembra fantascienza. Algoritmi che diagnosticano malattie con una precisione mai vista, robot chirurgici che operano con precisione millimetrica, terapie personalizzate in base al profilo genetico del paziente. Pazzesco. È un'evoluzione pazzesca, hai ragione. L'IA sta aprendo scenari che fino a pochi anni fa erano impensabili. Però, come ogni rivoluzione, anche questa porta con sé nuove sfide, specialmente sul piano etico e legale. Per esempio? Per esempio, se un algoritmo diagnostico commette un errore, chi ne è responsabile? Giusta osservazione. Il medico che si è affidato all'algoritmo, chi ha sviluppato l'algoritmo, l'azienda che lo commercializza. E come si fa a gestire la privacy dei dati sanitari in un sistema in cui le informazioni sono condivise e analizzate da intelligenze artificiali. Domande importanti, a cui non è facile dare una risposta. Esatto. L'uso dell'IA in sanità solleva questioni complesse in merito alla responsabilità, alla trasparenza degli algoritmi, alla sicurezza dei dati. E poi c'è la questione, non meno importante, del rapporto medico-paziente. Certo, è fondamentale. L'IA può essere uno strumento prezioso per i medici, ma non deve sostituire il rapporto umano, l'empatia, la capacità di ascolto che sono essenziali nella cura. Sono d'accordo, l'IA non deve sostituire il medico, ma può sicuramente aiutarlo a migliorare la qualità delle cure E passando alla finanza, anche qui l'IA sta portando grandi cambiamenti. Ho letto di algoritmi di trading che operano sui mercati finanziari con una velocità e un'efficienza sovrumane, di robo-advisor che gestiscono i risparmi degli investitori, di sistemi di intelligenza artificiale che valutano il rischio di credito. La finanza, per sua natura, si presta molto bene all'applicazione dell'IA. L'analisi dei dati, la previsione dei trend, la gestione del rischio sono compiti in cui l'IA può fare davvero la differenza. Ma anche qui ci sono delle zone d'ombra. Ad esempio? Ad esempio, se un algoritmo di trading causa un crollo del mercato, di chi è la colpa? E come si fa a regolamentare l'uso dell'IA in finanza per evitare discriminazioni, manipolazioni o addirittura crisi sistemiche? Domanda a cui i legislatori e le autorità di controllo dovranno dare una risposta. Esatto. L'IA in finanza offre grandi opportunità, ma è fondamentale sviluppare un quadro normativo solido ed efficace per mitigare i rischi e garantire la stabilità del sistema. E per quanto riguarda il processo civile? Ho letto di sistemi di IA che analizzano documenti legali, che redigono atti, che addirittura predicono l'esito di una causa. Sembra che l'IA stia entrando anche nelle aule di tribunale. Sì, si parla di giustizia predittiva, un campo in rapida espansione. L'IA può essere usata per automatizzare molte attività del processo civile, per rendere la giustizia più efficiente e accessibile. Ma anche qui bisogna essere prudenti. In che senso? Beh, per esempio, un algoritmo che predice l'esito di una causa può influenzare il giudice. Potrebbe essere. Può creare pregiudizi. E come si garantisce il diritto alla difesa in un processo in cui l'IA gioca un ruolo sempre più importante? Sono domande importanti a cui il diritto dovrà dare risposte chiare e precise. Assolutamente. L'uso dell'IA nel processo civile solleva questioni etiche e giuridiche complesse, che vanno affrontate con attenzione per evitare distorsioni e garantire un giusto processo. E torniamo a un tema che abbiamo già accennato, ma che merita un approfondimento. La personalità giuridica dei robot. Sembra un'idea futuristica, ma a quanto pare se ne sta discutendo seriamente. Sì, è un dibattito che si sta facendo sempre più acceso. L'idea di base è che i robot del futuro, quelli con un alto grado di autonomia e capacità decisionale, potrebbero essere considerati come dei soggetti di diritto con diritti e doveri propri. In pratica, equiparare i robot agli esseri umani. Un passo enorme, con implicazioni difficili da prevedere. Non necessariamente. Si potrebbe pensare a una forma di personalità giuridica speciale per i robot, diversa da quella delle persone fisiche o giuridiche. Sarebbe un modo per riconoscere ai robot una certa autonomia decisionale, la capacità di agire nel mondo, ma sempre sotto il controllo e la supervisione dell'uomo. E quali sarebbero i vantaggi di un simile riconoscimento? A cosa servirebbe dare una personalità giuridica ai robot? Beh, potrebbe semplificare la gestione della responsabilità in caso di danni causati da robot. Se un robot ha una sua personalità giuridica, potrebbe essere chiamato a rispondere direttamente delle sue azioni, senza dover risalire al suo proprietario o al suo programmatore. Quindi, in caso di incidente causato da un robot, si farebbe causa al robot stesso, non al suo creatore o al suo proprietario. Davvero un'idea rivoluzionaria. Certo, è un'idea che solleva molte domande. Chi gestirebbe patrimonio di un robot? Chi pagherebbe eventuali danni causati da un robot? E come si concilierebbe la personalità giuridica dei robot con i diritti degli esseri umani? Domande complesse, che richiedono un'attenta analisi e un dibattito pubblico aperto e informato. Ma forse è proprio questo il bello dell'IA. Ci sfida a ripensare i nostri schemi mentali, i nostri concetti di responsabilità, di soggettività, di diritto. Assolutamente. L'IA ci spinge a confrontarci con il futuro, a immaginare scenari nuovi, a trovare soluzioni innovative. E questo è un processo stimolante, anche se a volte può sembrare inquietante. E a proposito di futuro, torniamo al tema del lavoro. L'automazione sta già trasformando il mercato del lavoro, ma cosa ci riserva il futuro? Davvero i robot ci ruberanno il lavoro? Una domanda che in molti si pongono, con un misto di ansia e di curiosità. È difficile fare previsioni precise. L'IA sta automatizzando compiti che un tempo erano svolti solo dall'uomo, ma sta anche creando nuove opportunità in settori come la programmazione, l'analisi dei dati, la robotica. La vera sfida è adattarsi a questo cambiamento epocale, acquisire nuove competenze, ripensare il modo in cui lavoriamo. E qui entra in gioco il ruolo della formazione, del reskilling di cui abbiamo già parlato. Dobbiamo prepararci a un mondo del lavoro in continua evoluzione, in cui alcune professioni scompariranno e altre nasceranno. Esattamente, e per fare questo dobbiamo investire nella formazione, sia a livello individuale che a livello di sistema. Le scuole, le università, le aziende devono adattarsi a questa nuova realtà, offrendo percorsi formativi che preparino le persone ai lavori del futuro. Quindi la chiave è l'adattamento. Dobbiamo imparare a convivere con l'IA, a sfruttare le sue potenzialità, a mitigare i suoi rischi. E dobbiamo farlo con intelligenza, con lungimiranza, con un forte senso di responsabilità. Giusto. L'IA non è un destino ineluttabile. È uno strumento potente che può essere usato per il bene o per il male. Sta a noi decidere come usarlo. Per farlo dobbiamo prima di tutto capire cos'è l'IA, come funziona, quali sono i suoi limiti e le sue potenzialità. E questo ci riporta al tema della trasparenza degli algoritmi di cui abbiamo già parlato. Se vogliamo che l'IA sia al servizio dell'uomo, dobbiamo essere in grado di controllarla, di capirne il funzionamento, di evitare che diventi una scatola nera che prende decisioni al nostro posto senza che ne siamo consapevoli. Esatto. La trasparenza degli algoritmi è fondamentale per garantire un uso responsabile dell'IA. Dobbiamo essere in grado di capire come gli algoritmi arrivano alle loro decisioni, quali dati utilizzano, quali criteri applicano. Solo così potremo evitare discriminazioni, manipolazioni o addirittura abusi. E non dimentichiamo l'importanza dell'etica. L'IA, come ogni tecnologia, è uno strumento e dipende da noi come lo usiamo. Dobbiamo sviluppare un'etica dell'IA, un insieme di principi e di valori che guidino lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA verso il bene comune. Giusto, l'etica dell'IA deve essere al centro del dibattito pubblico, perché riguarda tutti noi. Dobbiamo interrogarci sui valori che vogliamo incorporare negli algoritmi, sui limiti che vogliamo porre all'uso dell'IA, sulle responsabilità che vogliamo attribuire a chi la sviluppa e la utilizza. E a proposito di responsabilità, torniamo per un attimo al tema della privacy e della protezione dei dati personali. L'IA si nutre di dati, ma come possiamo garantire che i nostri dati vengano utilizzati in modo responsabile e nel rispetto della nostra privacy? Il GDPR è un passo importante in questa direzione, ma non basta. Dobbiamo sviluppare nuovi strumenti di tutela che garantiscano trasparenza e controllo sui processi decisionali automatizzati che ci permettano di decidere come vengono utilizzati i nostri dati. E forse dobbiamo anche ripensare il concetto stesso di privacy nell'era dell'IA. Con l'Internet delle cose, i nostri dati vengono raccolti e analizzati in modo sempre più capillare, spesso senza che ce ne accorgiamo. Dobbiamo sviluppare una maggiore consapevolezza del valore dei nostri dati e dei rischi che corriamo quando li condividiamo. Assolutamente. La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale che va tutelato con la massima attenzione nell'era dell'IA. E questo richiede un impegno da parte di tutti. Cittadini, aziende, istituzioni. Quindi l'IA ci pone di fronte a sfide enormi, ma anche opportunità incredibili. Sta a noi decidere quale futuro vogliamo costruire. Possiamo usarla per costruire un futuro più giusto, più equo, più democratico. Oppure possiamo lasciarci dominare da essa, rischiando di perdere il controllo della nostra società e del nostro destino. La scelta è nelle nostre mani. È la responsabilità di tutti noi. Dobbiamo informarci, dobbiamo riflettere, dobbiamo discutere. Solo così potremo sfruttare il potenziale dell'IA per creare un futuro migliore per tutti. A proposito di responsabilità, mi ha colpito un articolo che mi ha dato, un'intervista a un famoso giurista. Lui propone una riflessione davvero interessante. Cioè, se diamo una personalità giuridica ai robot, non dovremmo forse ripensare anche il concetto stesso di responsabilità? È una provocazione, certo, ma non è detta a caso. Il giurista nell'intervista dice che se i robot del futuro saranno davvero in grado di prendere decisioni autonome, allora dovremmo iniziare a considerarli come dei veri e propri agenti morali, capaci di valutare le conseguenze delle proprie azioni. Interessante. E quindi di agire di conseguenza. E se fosse così, la responsabilità per eventuali danni non dovrebbe ricadere solo sui loro creatori o sui loro proprietari, ma anche in qualche misura sui robot stessi. Quasi come se applicassimo al robot lo stesso principio che applichiamo agli esseri umani, a capacità di intendere e di volere. Esatto, proprio così. Se un robot è in grado di capire che un'azione è sbagliata e di evitarla, allora può essere ritenuto responsabile. È un'idea che apre scenari complessi, affascinanti, senza dubbio. Significherebbe ridefinire il concetto stesso di responsabilità, estenderlo anche alle entità non umane. E non solo. Ci porterebbe anche a interrogarci sulla natura stessa della coscienza, dell'intelligenza, della moralità. Cosa significa essere responsabili? Quali sono i requisiti per poter attribuire la responsabilità a un'entità umana o artificiale che sia? Domande profonde che ci portano al confine tra filosofia e diritto, ma forse è proprio questo il bello dell'intelligenza artificiale. Ci spinge a esplorare territori inesplorati, a rimettere in discussione le nostre certezze, a immaginare nuovi modelli di pensiero. A proposito di futuro, torniamo per un attimo al tema dell'IA e del lavoro. Abbiamo parlato di automazione, di reskilling, di nuove opportunità, ma c'è una cosa che mi incuriosisce. Come cambierà il modo in cui lavoriamo concretamente con l'arrivo dell'IA? È probabile che vedremo una crescente integrazione tra lavoro umano e intelligenza artificiale. L'IA non sostituirà completamente l'uomo, questo è poco ma sicuro, però lo affiancherà in molti compiti, automatizzando le attività più ripetitive e liberando tempo ed energie per attività più creative e strategiche. Quindi non si tratterà solo di imparare nuovi mestieri, ma anche di imparare a lavorare in modo diverso, a collaborare con le macchine, a sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale. Esattamente. Immagina un medico che grazie all'IA può dedicare più tempo all'ascolto del paziente. o un avvocato che, con l'aiuto di un sistema di intelligenza artificiale, può analizzare migliaia di documenti in pochi minuti e concentrarsi sugli aspetti strategici del caso. L'IA può essere un alleato prezioso, uno strumento che ci permette di lavorare meglio, di essere più efficienti, di ottenere risultati migliori. E non dimentichiamo l'impatto dell'IA sulla vita quotidiana. Gli assistenti virtuali, i sistemi di raccomandazione, le app che ci semplificano la vita. L'IA sta già entrando nelle nostre case, nelle nostre tasche, nelle nostre abitudini. È vero. L'IA sta diventando sempre più pervasiva e questo apre nuove questioni. La privacy, la sicurezza, il controllo. Però, se sapremo usarla con saggezza, l'IA può migliorare la qualità della nostra vita offrendoci nuove opportunità di apprendimento, di svago, di benessere. Quindi l'IA è una sfida, ma anche un'opportunità. Sta a noi fare in modo che sia una forza positiva, che ci aiuti a costruire un futuro migliore per tutti. Sono d'accordo. L'IA è uno strumento potente, ma solo uno strumento. Il futuro è nelle nostre mani e dipende dalle scelte che faremo oggi. E con questa riflessione sul futuro si conclude il nostro viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale e del diritto. È stato un viaggio affascinante che ci ha portato ad esplorare temi complessi e sfidanti. Speriamo che vi abbia dato spunti di riflessione, informazioni utili e soprattutto la consapevolezza che l'IA non è un qualcosa di astratto e lontano, ma una realtà che sta già cambiando il mondo in cui viviamo. Grazie per essere stati con noi.